fatto adesso, sono andato di nuovo su a bussare quello dell'ultimo piano per chiedere chi abita atterrato. Ma non ci sono, devono essere tornati in paese. Adesso tocca aspettare lunedì. Tu magari cerca di riuscire a trovarlo, magari chiedi permesso e senz'altro te lo daranno. Ma poc'anzi a proposito, pensavo di mettere, ho sentito un altro, chi era che l'altro che è entrato? Ho sentito una battuta, boh. Sembra un bambino muscolo. E fallo fino avanti, dai. Sapo, è entrato e è andato. Sì, no, avanti. Non si è allontanato. Vabbè, allora facciamo riprendere Antonello. Vai Antonello. Positivo, aspetta, facciamo una cosa. No, non ho fatto un baracchino, devo scendere il capo perché no, l'alimentazione è finale. Andiamo a scoprire dove è interrotto. 5 minuti, già riprendo subito. Vabbè, ce l'hai i piccitti, ma quello guarda quello integrato già. E con quelli già si vedono benissimo, per cui è facile approvarlo. Questa verde ne aveva uno, una lente grande, ma grande però, con la lampadina sopra, cazzo come trovava il circuito, l'interruzione con quella lente. Ma era grande, proprio fatta apposta per certi lavori piccoli, capito? E così dovresti fare tu, una bella lente grande e la lampadina sopra. Allora sai come li trovi, è favoloso, io l'ho visto da Betta Verde, per cui è una lente veramente ottima, ecco. Sì, già lo so, ma a me in pratica possono arrivare 12 volts, mi arrivano quasi 3, hai capito? E sto cercando di avere qua il componente che è bruciato, e non riesco a... perché non c'è schema elettrico di questo baracchino, qui sto andando a intuito, hai capito? Quindi c'è con la resistenza che è interrotta, c'è sempre fatto qualche resistenza o qualche transistor interrotto, che mi dà alimentazioni finali, perché se non c'è l'alimentazione finale giusta, il baracchino non va. Che apparato è? Un coso, è un format 777, vecchio come baracchino, è un 200 canali di vecchio, MFM, USB, USB, c'è le bande A, B, C, D e F, G. Sei il clone del Polmar Oregon. Se è uguale, ci arrivo subito dove, ma stai controllando la tensione da dove arriva e ci arrivo subito. Ma se guardi su internet, se guardi bene, forse c'è lo schema elettrico di quell'apparato. Trovi, cerchi due nomi, Polmar Oregon, e dovresti trovarlo. Domani ci va, adesso ho il computer che sto mettendo l'antivirus, domani controllo, se no già vado a cosa, me lo faccio dire, ci metto molto. E lo metto fino alla trasmissione, tutti quanti, però non mi arriva l'alimentazione, non capire dove cazzo è che è il problema. Anche perché non c'è schema elettrico, è un casino, non c'è scritto schema elettrico. Andiamo a fare una cosa domani, figlio di tra 5 minuti mi avvicino a lui e così scopro subito dove è il problema. Alla me che te lo metto a posto io, diglielo Giommari. Sì, come l'alimentatore. Se lo posso in 4, un ovo, un ovo. Brica burro, da tutte le recensioni che prende, vero? Purtroppo, ma che questa roba ha una fine, no? Se guardiamo noi, se possono guardare loro, noi non ci ammaliamo. Allora bisogna prevedere, lo mandi al medico e vedrai che si mette a posto. Ci vogliono anche i soldi, senza soldi non si può fare niente oggi, o no? Anche io non lo dubbio, è più vanno e più vale giù più. Eventualmente una spolverata gliela do io, a fare di un bocce in magazzino. Entro settimana provo a aprirlo e vediamo un po'. ho raccolto, rifaccio No, no, mi è diventato un culo antipatico, non lo voglio più vedere. Vabbè, ya, ce l'hai l'alimentatore, dici che lo pilota bene, mio Stampera lo pilota bene, dici che figlia Antonella, lo pilota un Stampera, un baracchino. Brava voglia che lo pilota, anche gli altri, se mette un bisogno di 50 gli altri battono un Stampera. E dici che è tranquillo, capito? È nuovo, è già buio, è il cazzo. Stalo bene, non li più va però, non lo sposerà, se cacciano a questione figlia. A chi tu guardi più pareggi, loro distruggono la pacca e non funziona più. Per cui noi più verranno più. Oh, ma casa di Grecia, la casa delle ragni, Trento, non mi tocco più. Non tocca la mano, non aprire mai, che c'è, non se la braffa. Quando funziona, non bisogna mai toccare. Poi, uno deve essere anche competente cosa sta facendo, è inutile che uno si bocca le mani e da buio non si funziona. A tu! Ciao, siamo a 7 ampere CPC, ma è una bomba, e ce l'ho già 6 anni e funziona benissimo come il primo giorno che l'ho comprato. Ma anche questo funziona bene, cattano qui via. Ma ciò funziona bene, sì. Che è tranquillo, pacifico. È perfetto, per cui se no non gliel'avrei dato, se non avrebbe funzionato bene non gliel'avrei dato, che infatti io non ne facevo niente, che gliel'ho dato, dopo arrangiati. Beh, anche non posso vedere più niente il magazzino, deve essere pulito, capito? Non voglio avere più niente in magazzino. Quella elettronica digitale è un cosa digitale, però è buonissimo, ragazzi, buonissimo. Ma l'ho preso da cosa, da Mercioni questo, qua avevo pagato un sacco di soldi in un'alimentatore. Si troverà una vicina d'anno, però ha sempre funzionato bene, perfettamente, per cui non ho avuto mai problemi, capito? È nuovo nuovo, ecco, è nuovo nuovo perché sta acquisato poco e niente. E poi lo senti a Graziano, è una cannonata. Ciao, sono buoni quelle alimentatori, già. Vorrei di questo che ho io, me ne avevano parlato male, ma cosa, che si crepa nessuno, penso. Ma io ci ho attaccato anche la musica a Torino. E dico che va bene, me lo porta bene, mi ha sempre funzionato bene. Grazie a Dio ce l'ho già, sì. 6 anni, penso che ce l'abbia anche di più, 7 anni forse. E va, che è una bomba, va benissimo, va. E me ne aveva detto una cosa che non valgono a niente, eppure io vedo che vale, funziona bene. Ah, ma qual è il Twinkie? Sì, quello senza strumenti. Ah, allora io cerco un Twinkie da 50 ampere della Telecom. Sì, che c'ha, allora, 2, 3, 4, 5 attacchi davanti, c'ha. 5 attacchi, più anche c'ha l'accendisigaro. L'accendisigaro. Per cui io ce l'ho, una decina d'anni ce l'ho, ha sempre funzionato bene, e per cui il pacchetto si sta funzionando con quell'alimentatore, è da 50 ampere, e a qualcuno gli è andata male, ma ci sono anche, vuol dire magari difettosi, si trovano anche nuovi difettosi, per cui mai altro cambiano, voglio dire, capito? No, il mio, grazie a Dio, è andato sempre bene. E l'ho messo anche carico, eppure non è successo mai niente. Per cui vanno bene, vanno bene. Sono bene, sì. Molti perché si tengono le mani a posto e bruciamo tutto. Tu, già. Tu? No, già dobbiamo far bene le cose, bisogna anche trattarle bene. Perché molta gente magari si sovraccarica, hanno si attaccano non mi sa che cosa, li crepa nel paghetto. E come Graziano, eh? Graziano con quell'alimentatore ci faceva le applicazioni ci faceva alla guizione, capito? Dice che non andava e allora ci faceva le applicazioni e andava. È sicuro, cazzo, sono anche maleducato. Una volta solo che ho cambiato il finale e ci sono parlato a Rufumba la Giuga. Sa 6-7 mesi fa, te lo ricordo. Finale 6-7 mesi fa, ma era più di un anno quello puro, conservato. E sta funzionando fino a ieri, dove rimane a fare a dare un fumo. Stamani il giambri finale era funzionante andare tutto a becchio, aggiungava a usarlo e poi riprendo giovani. Ascolta, non ci ammaliamo noi, ci possono ammalare anche loro, è sulla vita, cazzo, è una cosa funzionante a stare in bocca. E un attimo, lo spenghi, lo riaccende, non lo accende più, boh, purtroppo sono pezzi che ci vanno anche delle temperature abbastanza alte, per cui possono anche bruciare, così che comunque, farà bene. Adesso ce l'hai l'alimentatore tranquillo e pacifico. Coditelo! Ehi, adesso non sto usando quello, l'ho spento. Sto usando quell'altro, mi l'ha giudicato, è congelato, quello del computer. Ma quelli lo scaldano, quelli lo scaldano quasi nulla, cazzo. Quelli sembra così, ma sono buonissimi, fanno benissimo. Però se lo attacchi a quell'altro apparecchio, quello lì esce male. No, non l'ho mai provato, ma non è bruno né macco, non ha di giocare più nulla. Né macco di più pareggio. Ah, grazie, da lontano mi vedo buffi e bacca. Ok, Antone. Ehi, aspetta che sto provando la geccia. Non farò attaccare, aspetta. Va bene, allora facciamo vedere a Marco. Marco! Marco sta parlando in verticale, tu! Ciao. Ma cosa c'è anche l'alimentatore del computer, già? È bello, piccolino, però è bello, sta uscendo bene, poi è uscito sempre bene, in giuria con quell'alimentatore e va benissimo. Già riconosci quell'alimentatore che c'è il computer già? Fatto parecchio, ma non è anche come fare la modifica, quindi voi ne fate una modifica e poi escono. La modifica non l'ha più fatto nulla, ho attaccato il tiro almeno e la camera è al tiro almeno e boh, solo che fa schifo come poi c'è una ruotellina che puoi alzare gli appelati, capito? E funziona, fa 5 volt più 15 ampere, poi gli oscuri più 24 ampere più V 4 ampere, no, 24 volt e 4 ampere. Si chiama. Allora di quelli l'ha svoltato che era che cosa, capito? E me l'ha dato, poi mi veniva a procurare e non me l'ha bucata ancora. Adesso già me lo procurava, non si è fatto più bene. È verticale, rimane piatto verticale, capito? E c'ha tutti i contatti anteriormente, per cui non è brutto, non è brutto, per cui magari perché in quella posizione grazie a che tu l'hai messo, ma se Marauro non è brutto, basta mettere un punto tranquillo che non si vedrà tanto e va bene. Poi vanno benissimo quella rimettatura, capito? Vanno bene, bene, bene. Poi c'è l'amperaggio alto per cui lo pilota abbastanza bene, dai. Tranquillo, grazie. L'importanza di non toccare mai niente. Ah, ma io non la ci vai giocato. Cosa del genere fate, per forza ce le hanno, e la valvoline ce l'hanno tutti, per prima di fare, perché se fa contatto dentro, se non c'è fusibile può bruciare tutto, capito? Invece prima parte fusibile e blocca tutto, capito? Ah, va bene, non è brutta la manutenzione, così verticalmente davanti ce l'ha così, capito? Poi c'è la pentolina di switch che sono raffreddante, la voglia che vanno bene. Pentolino non ne hanno, questo non ne ha pentolino, pentolino non ne ha, magari forse era magari dove era messo questo pezzo all'interno, forse c'era qualche ventolina magari che raffreddava quando riscaldava, capito? Ma internamente non ne ha ventolina, così è grazie a... poi ho portato così all'arma, non si è voluto a presa, attacca il cacca, e ho applicato un interruttore di abbaggiù che accende e spegne. Non sopra modularsi. Ho detto che non ne ha ventolina quell'alimentatore, grazie a... No, infatti ho guardato dentro, non ne ha, infatti io ora vi applicato, ce l'ho una piccolina, sempre di computer, ma ha detto ma non gliene metto, tanto non scalda, cosa ve la ponga qua. Io solo ho applicato l'interruttore della bagnuglia, l'hai visto, per accenderlo e spegnere, però stare attacca a stacca. Va bene così, no, è siccome ti sto dicendo io, la pentolina per il raffreddamento ce l'aveva, poi non scalda quasi niente, siccome però la pentolina c'era dentro, però dentro la carcassa, che però perché essendo chiuso, chiaro che scaldava più, così non scalda perché all'aria aperta, per cui non scaldano assolutamente, però essendo dentro la carcassa del computer scaldava, allora la pentola c'era, per forza c'era, ma non ce n'è una nel computer, ce ne sono parecchie ventoline, ogni mi sembra che ce ne sono 4-5 queste ventoline. Allora io quello lì me le ha date anche le pentoline, me ne ha dato due se le ha tenute lui piccoline, e una pochettino più grandetta, però non le ha applicate, tanto già raffreddava, ha giusto in alzarsi. E lei, c'era qualcuno che fischiava, avanti che vuole entrare qualcuno. Ero io Giovanni che stavo, ho fatto video, perché no, ho schiacciato così perché volevo vedere una cosa, non è niente. Pietre, vabbè. Vediamo un po' se è rientrato Marco. Marco. Ma vai adesso l'occhiolino prima, a me graziano se chi sia qualche malvivente. Sorti si bolsa di là. Okay. Marco. Ah, Tonello è impegnato. Ah, contendo e facendo. Ah, Tonello, quindi tu hai e da farà due. Sicuramente, sì. Ma se non ho messo il fatto, ma se non ho niente, mi ha fatto. Me l'ha comprata una papo, ho fatto un regalo. E in questo rimanere del computer, mi sono messo il Galaxy. Adesso ho appoggiato questo. Se l'è vuote, già. Ho appoggiato anche questo adesso, questo maratino. E sono contento, sono. Ho fatto il Galaxy. Ma non posso metterci da non posso mettere la mia, perché mi sono toccato la gente, sto sopra il tavolo, era un casino. E beh, almeno rimane più ordinato la cosa. Io non ce l'ho sulla scrivania. C'è tutto sulla scrivania. È abbastanza grande, però è sopra la scrivania stanno bene, capito? E l'alimentatore ce li ho sotto. Nel piano di sotto, per cui vanno bene, dai. No, l'alimentatore io c'ho sopra il mobile, c'è l'alimentatore. Ma allora come buco, meno male. Tanto contento anche se il blocco, tanto il blocco, tanto il blocco anche rimane fermo. Ma non ha trovato, la mia sotto stava a mettere sopra. Minuti che devo fare, sbocciarmi le patate e mettere i fagiolini, Giovanni. D'accordo. Bucciane tanti di queste patate. Va bene. Vai a tu. Ciao, ok, Graziano. Ce la risentiamo. Alla prossima. Anzi, non passato, lo faccio un l'insalata, i fagiolini con le patate, va benissimo. Si mette un paio di pomodori in mezzo, un paio di uova a sole, si arrapisci, e benimbe. Però io sono un po' che si ha mangiato, non vado molto per questo. Non vado molto matto. Ma qualche volta l'assaggio, un po' di patata bollito, così. E vabbè, ma insalata va benissimo, è un po' mischiata la roba, no, magari non tutti i giorni, però almeno una volta ogni tanto bisogna anche fare una cosa del genere. È già tutto buono. Una volta ogni tanto bisogna anche mangiare, perché se non troppo anche qualcosa non va neanche bene. E non credo bene. Sono i dubbi, fate fa fiago. Sarebbe una cosa che non mi piace la gaura, ma... Beh, a chi piace, a chi non piace, via. Così che... Vabbè, anche io poi mi attento, dai 5 minuti. Se mi lascio un poco, faccio i giacchi tutta... A tutti i grommiti, minnate un po', dai, magari fra un quarto d'ora, dai, ci sentiamo. Già va acceso. Sì, ok, Gio Maria, dai, ce la risentiamo. Alla prossima, non c'è più nessuno. Buon buono, ci sei. Ok, ce la risentiamo. Thank you. pochettino di tempo fermo, baracchino normale. Positivo, positivo. Va bene, è un rumore che fa, ecco, capito, lo sto sentendo. È un peccato, sì, ma non ci si riesce a toglierlo. Boh, bisogna chiedere a qualcuno che lo sa. Io dicono che è un problema di massa, ma secondo me è un problema dell'integrato. Non lo so. Secondo me c'è qualche problema. Noi, Falcone! Vabbè. Buonasera, amico. Ah, no, mi baria Fabrizio. Cosa? Va. Ma che cazzo si chiama? Ma me lo nomo, va. Non mi ricordo il nome. Via. Non si tifo. Non si sente altrove. Si è sempre fischiando, sta. Maschera. Non mi pari Fabrizio, mi pari... Non mi ricordo il nome, porca trombo. Chi è? Non mi ricordo il nome. No, non è mascherato, no. Ecco cosa ha detto la mappa che deve fare, perché ho capito adesso chi è. E beh, cazzo mi tocca il DB, mi tocca. A Piero, dicendo ogni mese 190 di affitto, poi tra luce e coso fanno 320 euro, 210 euro ogni due mesi, ogni due mesi spendono, no? Tra gas di cucina, come si dice, cioè tra gas di cucina e caldaia, scaldabagno a gas, K 210 euro ogni due mesi. Non è poco, ma non è, cioè non è che ci stia risparmiando neanche. Tra affitto e tutto, affitto è quello che consumano, sia luce che gas. Ah, se mi parli di quello, sì. Ma la madre, ma la ti dico, usa ogni giorno lo scaldabagno, cioè la caldaia. Con la doccia. Così ci tengono regolarmente una bombola da 20, una bombola da 20 dura, mi sembra, neanche un mesetto, se solo sono scaldabagno, durerà, cosa ne so, un 20 giorni, anche di più, dai. Anche di più di 20 giorni. Quindi stiamo dando noi 52 euro portata a casa, perché purtroppo quelle da 15 sono miscela, sono, è un casino, hai capito? Beh, io stavo morando a 20, non l'ho mai sentito. Ma sono quelle che usano nei ristoranti? Quelli sono più per uso domestico, sono, e ce ne abbiamo tutte, ce ne abbiamo da 10, da 15, da 20, da 25, da 62. Cazzo, 62, ma la portata è quella? No, la portiamo, abbiamo terra lì, me la scarico io, la porto alla spaghetteria. Da Cuddu? No, lì se mi pongo già me la piglia a Cuddu. E la tubesa? Quasi intorno ai 140. La massaglia di varia. Sì, me la carico io, me la scarico io. Beh, vuota la tubesa, più o meno. Un bel pesa. Vuota, non mi ricordo, devo guardare la tara, perché variano questo cavolo di bombole, beh. Hai capito? Poi anche nel riempimento, poi ne ho riempite quante la tara. Se per esempio la bombola piena pesa, con la tara pesa 31,5, 31,5 deve essere riempita, lo sai. Poi c'è quella che pesa 30,1 deve essere riempita. Vabbè, certo. Da certo che sì. Sendo quelle da 15, quelle da 15 pesano sul 5. Quelle da 10. Attenzione sul 5 per una prova a radio, cambio. Comunque roba così. Alcune sono più leggere. Attenzione, attenzione, canale 5, cambio. Ancora quanto pesano. Quella vuota 62. Però secondo che le prende ne butta la schiena. Già quelle da 25 pesano intorno ai 58, 56 kg, roba così. Beh, avanti 5. Canale 5, canale 5, cambio, cambio per una prova radio, cambio. E avanti. Buonasera, buonasera, come sto uscendo? Cambio. Sta un po' bassa la radio, il segnale vale da 7 a 9, ma la radio è bassa. Ascolta, mi sta facendo questo difetto questo CB, praticamente ogni tanto si sente bene, poi si abbassa, poi si riprende, cosa può essere? Dipende, ma il movimento te lo fa. È positivo, io ce l'ho dal camion. Problema di massa è l'antenna, adesso boh. Il problema è che la spia delle stazionarie non si accende, non si accende nulla, è tutto spento. Devo vedere un po' l'antenna, la moto ce l'hai piazzata. No, negativo, me l'hanno regalato a Natale, un Alan 48, tipo nuovo però stile vecchio, dai. Beh, ma è pensi pure che come ha piovuto sia, aspetta un attimino basso, mi si è arricchito un po' lì, ne abbiamo rimasto. È positivo, dai, adesso vediamo, magari controllo l'antenna, vediamo un pochettino se è quella, magari può essere che vollerò smettrata l'antenna. Pure, sì pure, chieda Luigi Vulcano, lui ti aiuta. È positivo, me l'ha già detto 3-4 volte che lo conosco bene Luigi e ancora non ci sono andato. Vai, vai, ti aiuta, te lo fa. Luigi, ti aspetto sui mezzi pesanti. È positivo, mi ha detto vieni col trattore, dice lo proviamo direttamente sulla macchina. Infatti, vedi, non è problematico, sai, va col tempo, ogni tanto bisogna pulirla, per esempio ti fa un inverno e ti va bene, poi l'estate, quando inizia a fare il caldo, conviene smontarla, la gliela pulita, ripiazzata, ritarata e lascia a posto per tutta l'estate. Positivo, va, andiamo a bene, vedi, vai. Passate una buona serata, ringraziamenti per l'informazione e un buon fine settimana, dai, alle prossime. Ciao, ciao, buon rientro, buon tutto e buon fine, ciao, ciao, avanti a tu. Capa, saluto l'amico, buon rientro e buon tutto. E vabbè. E beato! Tu, avanti! In mano, le prendete voi, tanto c'è stato Graziano adesso, quanto le prendi Graziano, sono qua in ascolto, mi mangio gelato, se si scioglie. Atto, è da 10 quanto la prendete voi la bomba? Ah, già c'è da 10, 27 portata a casa. Pisava, me ne guardava la massa, stannita. Poi le sto prendendo. è caricato il termosifone. Dunque. Scusa, 15, ce l'abbiamo 29 noi presa lì. Porta stata a casa, ho presa in nipoti. Presa da noi, 29 e 33 portata a casa, la facciamo una promozione. Ah, ma ho sentito, ne ho visto anche uno, a Bradanetta, due ragazzi, ci hanno aperto un pezzettino di terreno, c'è cioè, recintato con quel cambio se ci ha messo dove messi la bombola dentro. Ma lì si sono fatti i precivoni, a riconosci. Stanno rompendo le palle, dice, ma già si abbassano pure loro. E poi mi avevano dato anche un numero di telefono, questo tipo di sorso, che la rigava a casa a Bambintiro, quella la dice, però non l'ho mai chiamato, gli ha detto, saranno in Drancini. Poi, però dice, da poi si è abbassato più questo. Aspetta che mi sta chiamando sta madre, ma come non si crede? senti con la zona, Marco? Però già lo sento. Non qua forte. E come? Luca sì. Ciao Marco. Ciao Luca, come va tu di radio? Bene? 9:10, radio la bomba. Ok, questo è Connex 4000 Echo. Ok, volevo chiedere, Pomponio c'è ancora? Bravo. Ha detto Pomponio stasera ascolto. Si è parato. Io avevo trovato quello schema. Quello schema lì del Polmar, o Polmac come si chiama. No. Guarda che ha schiarito a fare un po' di ciò. Cosa ha detto? Troppo basso mi ha detto. Quello è tanto? Non ho detto, ma guarda che ha schiarito e sta facendo un po' di sole. Era ora! Focolari. Cazzo, ma rimi l'inverno, boh! Sembriamo l'inverno che è vero. Mica chiamare, ma Gesù si pure la cuffietta, arriva la zorra, cazzo non si pure ma cacciarà. Ma fumare magari, no? E allora, ma non potevi neanche aprire, a parte il vento, però l'aria era ghiacciata, adesso è già migliorato. Non ferma. E Graziano, lo senti, Marco? Attenta, Marco, mi senti? Io lo sentivo pio pio. Sono qua. Papa, già ti sento, passo però già ti sento. Ehi, dovevo uscire macchina poi. No, mi sono messo a cercare roba e non sono uscito. Ehi, non ci uscire che tanto bruci la benzina che costa un bel, vero anche tu? Un metro tanto costa. Io con 5.000 lire facevo il pieno e me ne avanzavo in burina. Oh, non sei in culo, ma come vieno esci? Conci quello, faccio da qui a... lì dopo c'è il Contini, torno a scendere, salgo a Via Pascoli, mi scendere e torno a riserva. Sì, che bello. Antonello. Dimmi. Ha risolto con quell'apparecchio? No, non ho risolto. Mi sembra lo schema e sapendo che cavolo è l'alimentazione. Ehi, guarda che ti ho trovato lo schema del Polmar Oregon, se ti interessa. Dovrebbe essere quasi uguale. E se sono uguali già mi va bene, non c'è problema. E se te lo porto adesso ti offendo? No, non mi offendo io. Così faccio il giro in macchina, capito? Ok, dammi tempo quanto d'ora. Eia, d'accordo. A dove non rimane alla patriccia vanno. Ma cento qui fuga faccio. Ui ui, per carità. Chi sa benzina si lascia la penna alle stelle, vedrai quest'anno neanche al mare andiamo, chi paga il burù, panda a mare. Mi sentite? Sì. No, ho cambiato radio, adesso faccio andare un po' questa, ti bravia un po' con quella. Stai uscendo, e anche io ho cambiato, lo stesso sono. Mi sono messo d'accordo che è cambiato, no, per la modulazione. Ho attaccato un po' l'inoiti. Ma già va bene, Luca, mi senti bene? Via. Era un po' di tempo fermo. Questo è l'Intec 550 Power. Andava se scendeva. Confermi Luca. Via, no, per me va bene. State arrivando tutti bene qua, tutti. E poco voluto. Ciao Luca, salutoni, come va? Tutto bene. Meglio così. Che bello il BDB. Quel BDB, questo è quello nello Zodiac. Non era quello. Ah, oh, c'è l'ho fisso e poi c'è l'ho PDP. Così, vera poi. No, quello è il bicchi del Saturn Echo con Sponsor Delta. È il mio, è nel coso, nella camera Echo il bip. Ma tu c'hai quella 4, questo è a 2 più 8 là. Ah, uscire, boh. E vabbè, già è bellino, va. Cavagava, riprendi Trantore. Aspetta che sto avvittando un coso, un bulloncino. Va bene, a tu, vieni avanti tu, dici. Papà, stai dove, non smogono più, quindi non so come tu che stiamo smogorendo, visto che era parecchio fermo. Adesso questo qua non lo farà, questo è il mio paracchino preferito. Anda troppo bene questo. Ora l'ho comprato nuovo. Adesso gli do una mazzata, ho fatto un po' di drill e ne ha cavato un bel poco di più, maro. Però non è che ce ne fosse stato per fine di tanto, li tolgo, li spolvero. Però siccome era fermo e tutte cose, allora è fatto così. Ehi, a nuovo da negozio te l'hai preso, è canti canali vaghi. Chi c'è un male? Questo qua, non me lo ricordo, comunque arriva fino a 80. E il mio ne ha 40 sotto e 40 sopra, arrivi a 80 canali, questo che sto usando adesso. Questo che comunque è già la mia aperitiva. E vabbè, già andava bene, ma stesso, ma lui è, per carità. Vabbè, il mio chicco è dell'anno di Noè, ha fatto la guerra. Adesso esce sempre bene. Ehi, anche lei c'ha quello. Perché non lo senti? Ehi, sì, già si sente. Anche questo c'ho la camera, no, nell'altro c'ho la, nello Zodiac c'ho la camera, ecco, però la lascio sempre ferma nello stesso posto, là. No, questo è originale è sua la camera, ecco. No, a quello Zodiac che gliel'aveva mappinata con Antonello, l'avevo comprata, infatti è della Intec la camera, ecco. E questo è un Intec. No, anche l'alimentatore che ha girato da Gio Maria era Intec. Ah, di quell'Intec ce l'ho avuto una volta, di quell'Intec vecchio, l'ha provato. Conservata, in mezzo ai bici dei baracchini, cioè dei microfoni, baracchini no, che se la giù la parte. Me l'ha bruciato, due me l'aveva bruciato quel cazzo di alimentatore. E due baracchini, mezzo ad Antonello e della e allora si era giù la parte. E adesso mi sta aspettando di nuovo e allora non posso più finire la giornata di Maria a te, no, non voglio più finire, grazie, abbi la voce. E l'aveva pagato Antonello 180.000 lire, allora c'era la lira. Comunque ti conviene andare per altro nuovo, anche quelli di marchette di PC che fanno bene, io sto usando di quelle e sono una bomba. Ah, ma questo che mi ha dato Gian Maria già andava in un gruppo e non c'ha niente, cioè funziona bene. No, è che io mi vorrei eliminare questo bagaglio che faccio in 99 e prendermelo Oh, da base, capito, una cosa unica, tua, da quella fina e basta, invece così elimino alimentatori, rosme, se immagino che fa un casino, e me ne metto uno solo, però me lo compro nuovo, me lo devo comprare, ma purtroppo mi è capitata la spesa e non lo posso umiliare, se no ce li avevo già in sud, 600 euro costa. Puoi pigliare un nuovo, puoi pigliare da base. Sì, è nuovo, nuovo me lo compro, quando faccio una spesa del genere me lo prendo giù un nuovo, perché così c'è tanto di garanzia anche, capito? Di da manera a pigliare così a seconda mano garanzia non hai. Vabbè, se trova un buono. No, no, ma non mi fido, no. Dura che mi aveva fatto Guido tanti anni fa, che avevamo il male che pure morto. Oh, cazzo, quello banda laterale, USB, USB, cazzo, AM funzionava bene, FM funzionava bene, USB non si via, LSB non si via, cazzo, mi ha fatto mal puttito e l'ho fatto fare un lavoro, l'ho lampato. E non le prendo più a seconda mano, me lo prendo nuovo e me ne riconservo i soldi piano piano. Chiama, sono di nuovo, ma l'hai già visto, sì. Ne stavo guardando alcuni nel computer di mia figlia l'altro giorno, e ce n'è uno che mi piace, e costa quasi 600 euro, 500 o 60, più il trasporto, per me se sento io. Ma che la senti di un coso, l'umanium, l'SNOPE, che è una bomba. Non lo so, perché poi devo chiedere a mia nipote, siccome è in Portogallo, sta studiando lì, ogni tanto rientra, di dirgli di guardare lì, perché lì ci sono, però costano molto molto di più acquistando la... Vabbè, mi pago la domanda, la dogana, però non mi viene mai a costare come costa qua da noi in continente, capito? Mi costa un bel rimanco. E glielo devo dire appena avviene, adesso non so quando arriva. Mi sembra che arriva a giugno e poi dopo ci sta una settimana e poi riparte. Mamma, è un baracchino di bisimane, quindi si trovare però di bisimane, ma è una bomba. Anche 50 passi di suo, cioè, no, non sembra ne a 40 passi, non me ne ammetto, ma è una radio, una signora radio. Ma lì sul posto in Portogallo gli paghi molto molto molto di meno di acquistarlo qua, capito? Acquistandolo là, poi me lo faccio spedire e mi prendo anche l'antenna lì abbinata all'apparato, capito? E spendo una cifra di meno, capito? Sai che spenda quelle 500 euro là, tra palacchina e antenna, ma me ne appunto, ma risparmio un casino di soldi. Se te ne vale la pena, vedi, e oramai le cose non è così importante. Ok, io vi devo lasciare, ce la risentiamo, è l'ora delle connessioni, ciao ciao. Ciao a te, ok, va bene, alla prossima, buon proseguimento di serata, salutoni al QRA, alla prossima, oh Puglia, sì sì. E io sono qua, Puglia. Popolo se n'è andato. Ciao a te, ci sentiamo alle prossime, stammi bene, concludete con tutto, avanti Piridia, entra. Aspetta, non mi guardo quelle patate, ci sono puttani se può rubare giù. Che controllato un mazzato. E risolviamo quel problema del questo rumore. Il problema è il fischio. collegarmi da questa settimana e parlate sempre lo stesso fischio. E così probabilmente ci questo trimmer e vediamo un pochettino se riesco a eliminare quel difetto strano. Per me va benissimo. C'è questo rumore, vedi così, non lo fa più. Senti. Già lo sento, già lo sento. Cioè. Non subito, eh. Perché fa così questa gente? Aspetta un attimo. Eia! Avanti il fischio! È ben corto e tu battato! No, avanza di un po' che un fagiolino, se no mi risciuglio, ma tanto sentare più, sicuramente la giubbunto con la buchetta, così così, fagiolini fanno prima, se no mi risciugli. Ah, sì, andate, tu l'hai pigliato l'ufficio, Fabiano, che? No, e infatti si sta abbassando. Come la mi sto passando? Ti sento più lontano. Più lontano mi senti? Anche se mi avessi io. Avanti, adesso ho aumentato il volume, prova. Mi sto avvicinando, mio, non è compreso. Adesso cosa sto facendo io? Oh, è alta. No, non fai l'ascensore, dunque lo vedo io. Sony, va giù la chiave. Non fare l'ascensore, non ne posso fare io. Ehi, gli apri l'ascensore, no. Ma non ne funziona. Ehi, la capone di là funziona, ma non il poli non funziona. A chi lo tenta non funziona più. Ah, così, andiamo. Come stai questo microfono? Mi trovo anch'io, grazie. Giulio, così è, già, poi ti cambia il volo al timbro di voce. Sì, ma fuochi è manco, ho detto che ho buoni ancora. No, già ti sento bene adesso. Già. Allora pongo ancora soltanto, mettiamo questo così, lo decalecca, è andato. Ehi, già va bene, già ti sento bene, già è pulita. Per Antonio, bomba azzurra, a chi dovrà fare cosa? Per Pompugno, chi sei smemoriente di Zalbida, chi no, non so cosa è, chi rimanca a fare questo un apparato. Antonio, se credi tu la metriga. E adesso come mi senti giù? Bene, ti sento, con le orecchie soprattutto. Allora sai che stamattina gli ho cambiato il finale a chi si impreaccio. E me l'ha bruciato, gli altri la giudizio. E ci sono le piagate, ma non ti si brucia. Tu lo puoi chiamare, un guadagno ti puoi chiamare, ti devo bruciare a te. Se non controlli, non c'è il quinto. Ti la mano brucia sempre, sempre, sempre. Ehi, ma com'è? No, non lo vengo più, non lo voglio nemmeno più vedi. Sta andando bene, adesso sto dando quello del mio altro Gio Maria. No, fa benissimo qua. Va benissimo quello, non ci sono problemi. No problem. Ma te l'hai detto al mare, ti pigliava che se Gio Maria si apposo, al manco. Se da qui non sai che funziona bene, basta, se non ci sai chi. Tanto si può raccontarlo, e tu non lo raccontavo, non ci credi, allora sei sempre da capo. Tanto Maria, se lo parla di nuovo, vuol dire fatto, questo Gio Maria è andato bene. No, ma poi mi aveva anche stufato, cazzo, mi dava un trono, fa pulire la mensola e fa l'anillo, mi diceva, le cannichini, è pesante, mi. E io mi sono esatti, così gli fa un trasformatore che fa tanta robusta. Secondo di che non perdina e noi ci troviamo un trasformatore che fa abbastanza robusta. Ma se tu lo puoi vedere, fa cambiare su switch, 25 ampere, 30 ampere, un bar 50 euro, 55 massimo, e si è appunto. Ma comunque fai lì su, basta, e no. Non per bisogno di comprare di altro, ma non andata per chi sa voglia, Andave, vieni a fare il buco, già, basta che funziona, andave. E vabbè, va più in là, quando me ne riconservo, che arriva quella cifra, che elimina giù tutto questo fracasso che va di noi, e me lo prendo da base, un buono, e ne da culo, va a fare un montinaggio di noi. E oppure un raggio, Vito Taurino, un raggio, 1, 2, 3, 4, un raggio. Raggio 2, da base, si sta attaccando direttamente la infine, senza bisogno di trasformare di altro metallone, niente. Raggio 2, dici. E poi raggio 2, che vola al metallone. Infatti sono collegati tutti i lati, e andano tutti bene. Poi raggio sopra, raggio a te, che così che fa il soppo, che si munisce, senza... Senta la casa, un po' sì, sono puniti in passato. Ma tu perché c'è lo spazio, io lo spazio, è quello che è. E dunque non mi piace di manco, io per poterlo mettere qui mi ho applicato due mensole nel terrazzo chiuso che c'ho a vetrata. E sopra l'alimentatore, sotto l'alimentatore con un microfono, un rosmetro, sotto ancora già attaccato una stampa sotto la seconda mensola, e beh, la camera ecco, il baracchino e la tua baracchino con tutta attaccata ai cristalli, cazzo, fa schifo a vedersi, fare una centrale, cosa di gioco. Quella centrale mai visitate che di centrale, cucci. Vabbè, cavani, se non ti piacciono così cavani, io davo il mio bisogno, 4 baracchini, 4 microfoni da tavolo, cioè 4 microfoni da tavolo, uno poi applicato l'F300, mi sono avuto la tenda varia. Appoggiarsi tutte le cose, capito, ha portato animale, invece no, che non si sta piccando. Andare così, andare, cosa? Cosa, ma non hai detto se questo microfono è forte, questo modulazione è forte, a parte non vado che sta, ma forte ancora. Ah, io ti sento abbastanza a fondo, aspetta, prova a parlare che poi già me lo segna, bene noi, vai! Ti sento prendendo fuori il radio, che mi è tutto lo segnale non è importante, non vedo niente il microfono con il segnale, lo segnale non l'altro, non l'altro, chi non l'altro, non l'altro, il microfono. E io mi sento, si deve andare forti, mi sforzi come te chi dai prima, oppure si deve andare più forti, chi dai dentro, tu mi hai chiesto, non è che mi hai chiesto, si chiama. No, quello di stamattina è il più forte, confronta questo sì. E che questo si cambia a timbro di voce anche. Capito? Oh, come è uscita a segnarci in quel qua del radio? Sì, lo so. Anche se non ci fosse qualcuno che vuole entrare. A parte, chi è che vuole entrare su questo canale? Luigi, tu se vuoi entrare? Non lo fa nessuno, grazie. Vuoi dirmi dove vai? Sì, perché tu alla fine non è assai adatto lo coso, non è assai adatto. E non ho il microfono che era, trattendi anche una lunga, compreso. Allora, io non intendi un bimbo di quello, e mi puoi tranquillo, mi intendi solo un radio e paga, ma senza bruci, senza rumore, vero? Oh, grazie. Ah, io ti sento solo la voce tua, sotto forno non sento niente, è pulito. E appunto, andavi là, andavi là, e Luca, non ti ha dato mai niente di là. Luca è morto, bravo, Simo. Ha finito di là. Andate in giro, perché signorini è andato. No, che stavo mettendo a posto un apparato e altro non so se Giuseppe gli stava portando lo schema. No, è Marco che mi sta portando lo schema, non Giuseppe. Ah, Marco, è arrivato. Marco, senti lo schema, cosa, qual è? Ciao Antonietto. Mi ha pulito, tutto il mondo si bagna. Mi ascolta anche il paramobile? Sì, con le orecchie ti ascoltiamo, sì. Ok, sono quasi arrivato dal Pomponio, riprendo dopo. Ok Marco, dagli un pugno in testa a Pomponio che gli se lo merita. Dagli un bacino da parte mia. In bocca il bacio? E allora dove glielo puoi dare? Da parte mia dagli un pugno in testa. Poverino, non li fai male. Ma non puoi, che è un po' credo. Lasciamo il cielo, da un mese sta bella, Antonello. Sono cazzato, una di a casa sua, non mi ha messo cosa di via a controllarmi. Cazzo di me non lo conosco, Babbo Natale, Maria. E che cosa va via? La mia parola va via, è un coso, è un cilio buio. I peli bianchi, bianchi, bianchi, come si mosse. Adesso va bene, che peso, è vecchio pandrotto, lo hai preso, non si fa nessuno. Lo è vecchio, Antonello, cazzo mi pare più minore di me. Io non credo, ma poi fa che tanto può dire. Oh yeah, che non si vuole fuori. Andoni, attento anche ciò di te. Ah va, sono arrivato Marco. Marco è, carichi il mio Marco. Marco, sta parlando l'Antonello. Che ti ha detto di cui mi piace capo? Antonello, ma lontano, mi lo faccio, lontano. Aspetta che mi guardo con la pentola dei fagiolini e patate. Vabbè, fai quello che fai. Andendi, andendi. Giulio. Attenzione, binario 5, cambio. Hai visto come è volata la serata? Attento, doppio ru. Gianni, mi colpi? Attenzione, Gianni. Avanti. Non sente Graziano, mi ci sta chiamando. Sto partendo adesso dal lavoro, là, in questo momento. Mi senti? Ah, mi senti? Ti ho sentito, se ti ho detto, hai visto com'è volato il pomeriggio. Gianni, attento alle curve di scala di gioco adesso, vai piano. È a mare Gianni, non è a scala di gioco. Ma faccio io le scala di gioco, faccio io. vicino all'AGP, e gli via la ESO e va all'autobotte attaccata. Ma c'è più quello, sono i cinesi. Ah, così è, brava, pure i vi sono muschi, andiamo a Giulio, mi stavo facendo un controllo a fagiolini e patate. Stasera mi faccio l'insalata, ci metto le uova duro e la cimenta. E anda a secondo. Sì, già anda bene, già anda bene. Da voi ti mangi un pezzo di gaccio piccante, ti mangi e ti vivo a data di vivo, sei a posto. Allora qui lo chef sono io, no? C'ho quel formaggio con i pistacchi, che è piccante lo stesso. Questo formaggio è la San Gavino, da questo pastore che non vendeva nel volete, ma se lo sapevo me l'avrei preso due o tre forme, buono, veramente buono, è sparito in una sera. E beh, ci fai se lo ricompri. Comunque formaggio buono se ne vuoi a usilo, ragazzi canto di voi, è buono davvero. Questo era semistagionato ma saporito, grazie, non era piccante ma era saporito. Io c'ho quello con i pistacchi, l'altro quel pecorino sardo l'ho finito, c'ho questo con i pistacchi, è un bel pischidente, è un bel buono Giulio. Ciao Guido, a me piace buono tutto, grazie. A me piacciono tutti i formaggi, non ci sono problemi. Soprattutto Gorgonzola, Gorgonzola a me è un bel. Pure a me, chi ci vuole la muffa? È la benedetta con i bambini, a te piace? A voglia, già ce l'avevo già, ne avevo quattro forme, con i vermi mentre ne avvocavo dalla bocca di Rubani, e mi difende brinchenni. Già lo vedo, è poco brinca, ne? Mio telefono, lui. Vabbè, aspetta che ti pongo. Ehi, già, dove sei? Io? Sono esattamente dove si sono arrivato a Giulio da tempo, dalla Imulegno, come si chiama, quella fabbrica, vabbè, la Santa Legnami. Ah, le cacci da bucco. Oh, dove vendono legna all'ingrosso? Ah, la Santa Legnami. Già ci sono andato spesso a Ciubalà, a Tauri e a Biglialli, vi piccati a brutti intrecci, guarni dauroni, per fare mobili, cucine, capito, camerette. Ciao. Faceva qualche prezzi buoni quello lì, quando andavo, ci andavo anche spesso, e andavo anche da Cannas e anche da Naitana a Pradaneggia. E anche Giulio qualche volta mi sa che sia andato, vero Giulio? E al telefono? Sicuramente sì, e beh, secondo che lavoro devi fare, devi andare a guardarti le tavole, scegliertele, cazzo, tu già stai in una smontata e ripiazzate, faccio parlare i dauri, non è così, no, e se ne avevi i guanti, uno e due scheggi ti si trovano in mano, puzzinosa. Legno, puzzinosa, dove è che Unia d'orore, te lo sto dicendo, cacca poi c'è capitato, mi dimenticavo i guanti, per non chiederli lì. Cazzo, due scheggi mi c'entravano, puzzi usi, gà, unia d'orore. Beh, è così, Oia, Giulio! Aspetta, come sono al telefono? Va bene, capo, grazie. Mi sente, sono pure Giulio? Ah, sono tu e Giulio, ci siete? No, veramente c'era anche Bombolo, però ha chiuso perché doveva fare cosa. Gian Maria, lo stesso, devi avere qualcosa, ha detto che rientrava, non si è sentito. c'è Antonello che sta guardando un apparato, ma non so se sarà in ascolto sicuramente. Ogni tanto già entra, poi c'era Luca che mi sembra, però stava mangiando sul gelato e non l'ho più sentito. Ciao Gava. Luca, ci sei? Io sto mangiando un cazzoletto di gelato. E quindi grazie, oggi insalata grossa? Fagiolini e patate, un uovo duro, cimento e la cimenta, un goccio d'olio balsamico e non andavi. Andavi sì. Una bomba, Ci metto l'olio d'oliva al nostro, che è puro, pulito, tranquillo, e l'aceto balsamico. Di farlo mezzo carburato a secondo andare a Puglia. Mi sa che c'è di concerto. Ehi, vabbè, a te credi che non si esce a Valaviva, perché non è che è proprio quella la faccio spesso la posso mi addosso quando mi attaccavo non sappia cosa fa. Che la faccio? Paoloni, paoloni. Io la faccio così, con il pomodoro a pezzettoni, e il tonno con l'olio d'oliva, l'uovo si pongo puro, l'uovo a turco, certo, c'è una bomba lì, ma mi piace già, non sappiamo cosa fa oggi, stasera, dice, beh, va a posto così. Ogni dire che mi muriate un capo a cosa cucinare, sempre la solita cosa cazzo mi ne vara. Io mi avevo detto di non fare più primo adesso, ne mangiamo solo insalate e le seconde, tanto che se un primo si fa ingrassare, il primo maledizione la pasta fa ingrassare maledettamente. So, però se non mangio il primo non mangio. Cazzo, sai come fa a lasciare gli spaghetti mezzo succiosi con il suo ragù mezzo succioso, ma scherzando sa. E non mi mangio il primo da bere, il secondo poi se ne mangio di manco. Io oggi mia moglie lo stava facendo con la salsiccia la comicata al suo. E domani noi ci facciamo il ravioli con il suo con la salsiccia. Chi non lo so, già lo so già. No, tempo indietro i ravioli me li facevo io con la ricotta fresca e le bietole selvatiche di campagna, le bollivo, le lavavo bene, poi li tagliavo io sulla tavola col coltello, poi le mischiavo con la ricotta e me li facevo io, poi non ne ho più fatto. Perché mia suocera li faceva, con cui ha messo il raviolo, ho messo in bottiglio, mamma mia. Io ma che pochi ravioli. Mi sa che uno di questi limbi di bozzo, pensandoci sto, aspetta mi guardo la pentola. Fai, fai. Attento, grazie alla vesina. Attento, primo la rossa. Ehi, stavo guardando la pentola, sono quasi cotti, l'ho spento, li lascio un 10 minuti ancora nell'acqua calda, così li finisce di cucinare, poi li scolo. E fai bene, e la vuoi ti rimagni? No, ricordo la giusta. Quanto sembra sei capace a cucinare? No, io non so cucinare niente, è la verità. Qui cucina solo mia moglie, però cucina molto bene. Beh, ti dico che io ho imparato io a mia moglie a cucinare, perché non potevo andare a cucinare, a usare. Io ho sempre aiutato mia madre da piccolino in casa, però lei il ricambio mi dà già di minuti, ma pigliamo le sigarette, i sapori, no? Allora c'erano le sigarette sciolte, acqua di babbo, e io con chi si accusa laggiù il tavolo, ma dammi le dirà. Hai compreso, tu fui buono, mi ha pigliato il viso di una cicca. Ti facevi dare i soldi per comprare le sigarette sfulle. L'ho compreso, vizioso della sigaretta. Ma buon grazie, dai, ti saluto, stavo ero al telefono poco fa, dai, ci sentiamo eventualmente magari domani, dai, me ne scendo giù. E ciccia, ma buon, dai, ciao, grazie, ci sentiamo, tanto sono un po', tu dovrai chiudere per forza, per quella storia sempre. Ti la verità che sei giusto l'appetito. Mi dica Gianni, già fame c'hai. E insomma, già ce l'ho un po' di fame, eh. Qualcosa adesso me la smorfisco anch'io. E vabbè, giuro, vai, ci sentiamo. Buona carica qua la fai. Buona continuazione di serata. Ciao ciao. Ok, ciao già, ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao, grazie. Alla prossima, dai, ci sentiamo domani eventualmente. Ciao, ciao. A tutti e due, ciao. Mi prendi pure, grazie. Ciao Giulio, buon proseguimento di serata. Salutone al Correa, alla prossima. Ciao. Grazie. Dimmi. Ma motivo che farate di lei che si dice? No, perché? Ma che tutto già andato, mia, lo sai? Ma finita l'anno la strada. Ho finita, però quando tu ritorni non puoi più passare davanti a Graziella, devi girare prima e fare quella strada tipo scala di gioca, che se vede la curva che non fini più. E c'è già uscita la macchina ricca. L'altro giorno c'è uscita la macchina quando stava piovendo, si era tutta imbarrata. E c'è questa curva lunga, lunga, non finisce mai, pare che sia finita, poi alla fine è ancora peggiore perché taglia proprio, no? Taglia di brutto la curva, oh, basta andare piano già, non si sente di nulla, ma dico. E poi c'è dal rifornitore dell'Agi. E passa praticamente dietro a quello che vede il materiale edile, ho capito, lei ci ridà. Passa su un ponte che dovrebbe essere la ferrovia, quella della Feroce, quella di Santa Maria di Pisa, penso che sia quella lì, quella ferrovia lì, quella che passa anche a Santa Maria di Pisa. E poi c'è sì, di fronte alle fuori dell'Agi, per quello che hanno fatto a nuovo, da poco, dove c'è il bar, eccetera, eccetera. E poi all'andata invece c'è proprio di fronte alle fuori dell'Agi, poi c'è la trincadura, però è più o meno come la prima all'andata, ma ritorno passi dietro. Già ho capito, già lo conosco quel rifornitore, ma ti travaglia tutti in canne i chivi, poi me lo voleva dare a me in gestione, invece me ne era dato volontario in marina, vedo ma cosa ho gustato, ma c'è da spararmi. Da, se mi passi da casa, grazie. Lo so, il proprietario era anche mio padrino, Dettori Giancarlo, il fratello del giocatore, Dettori Costanzo, che giocava nella Torres. Ma ricordi quello che aveva messo la bomba, mi pare, o con una bomba l'ha fatto scoppiare, qualcosa del genere, tanto tempo fa, quello lì era. Oh, qual è quello più su, quello dove c'è l'Agipi, signor Mario? Adesso c'è la signor Mario, quello è il padrone dell'ippodromo, dei cavalli che c'è a Serralonga, signor Mario. E Murgia? E Murgia, lì allora da tutta Puffabira, uno dei fratelli di quello di Via Montello che vende il vino, non so se c'è ancora, dove c'è quel palazzo tutto trasennato, non so se ancora lui chi è più tu. Sì, ho capito, quello che si deve fare di giorno. Se non messo le trasene da 100 anni fa ancora non l'hanno riempito lì, ma fine che mi farà tutto. E lì sotto c'era quello dei vini, qual era? Il fratello di Chissom Anziano, Gulacci Scia, che era il padrone del rifornitore. Ma poi si sono messi in società anche il fratello nel rifornitore. A chi c'è che era l'intento di farlo brincare in aria? Cava. Mi ricordo che era un bel po' di anni fa, ma me lo ricordo che è particolare. Già me lo ricordo. A me non mi poteva dire che sono un vecchio, a chi ero mangiato invece apri l'aria, farà per aprire prima, a inverno, no? Fa pizzicare i travagliatori che faravano a travagliare poi su giorno, anche da qui, in inverno tutta la vita, non facevo niente, capito? Lo passavano i macchini, allora dovevo approfittare la mattina presto e la sera dopo la chiusura che innaffavano un po' di macchine di travagliatori e entravano a rifornire. E mi ha detto che è giusto e mi ha fatto arrivare i casini. E si cantò affidavo le sigarette. E la sigaretta elettronica non la usi più. Si è truccata in due. C'è già di costare un garage. Ma io la si è truccata che me la si è dimenticata a letto e ne va sì come ti mette un cugino se la si è truccata in due, se la si è lampata. Poi non si viene a nulla, ma vabbè, pigliate le sigarette, se rientri sono qua, se no lo chiudo adesso che mi faccio l'insulina anche, là. Ce la risentiamo già, buon proseguimento e serata, ciao! Ci sentiamo, grazie, stammi bene, state cose belle, dai. Eia, ciao! Ciao a Tomello se sei d'ascolto! E dove stai andando? Ehi, non mi sei rientrato giù, tra poco mi faccio l'insulina. Beh, ho finito adesso, certo, ma faccio mai entrare, ci ho finito adesso. Ah, ma eri in magazzino? No, c'era gente. Ah, perché non ho sentito poco qua. Ma lì tu è riuscito già a rientrare subito, Mi c'è Gianni, non so se c'è ancora, c'è da prendere le sigarette. Vedi, fuggi la bippa dell'anca, che meglio. Chissà l'elettronica ha detto si era dimenticata, non so pure la truccata di e c'è la lampada. Ha fatto una chissà parte, più male di chissà sigaretta blu più. Già di Custamino, che in cucina tra la vetrina la cassa la suia. Ma cosa, a me non si fa nulla. Cazzo, fatti una tirata e c'è la rubumo. Fatti la seconda tirata e c'è la poco fumo, dopo non ne c'è più. Cazzo, mi ha truffa. E il filtro era già abiuto, dove c'è quel liquido dentro. E sì che la butti giura, ma non penna. È fatto bene. Va bene, grazie a te, devi chiudere, chiudi pure. Anch'io ho chiuso, là. Ci sentiamo, a domani se è coinciso, dai, buon proseguimento, saluti in casa. Buona patata e fagiolino e saluti, dai. Mi lascio scolare, va, sto scolendo. Va bene, ciao Gianmarì, saluti in casa, buon proseguimento di serata. Ok, alle prossime, a domani, cosa coincide. Ciao. Ciao.